Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Giovedì 4 marzo, buongiorno e bentornati di nuovo a tutte e tutti tra la città e il carcere. Io sono sempre Caterina Bombarda, la conduzione di Liberi Dentro e Duradio, e con me ci sono Ignazio De Francesco da Torino, buongiorno. Buongiorno, e vorrei dire in particolare a chi sta studiando, poi vedremo durante la puntata per quale motivo, ma in particolare chi sta studiando in carcere, un buongiorno particolare. La suspense, dopo lo riprendiamo. E dopo. Pietro Floridia, buongiorno. Buongiorno a voi. Dei Cantieri Meticci che ci fa compagnia per questa settimana. Oggi siamo in Italia, nel senso che la notizia riguarda le carceri italiane in generale, ma con un focus in particolare sulla detenzione femminile. Leggo infatti da donnamagazine.it di Evelyn Novello, carceri femminili in Italia tra stereotipi e discriminazioni, perché le donne in carcere sono il 4%, quindi poche, della totalità dei detenuti, e questo però tra tanti stereotipi e discriminazioni. Cosa subiscono in realtà le donne detenute in Italia? Sono svariati i temi collegati alla detenzione femminile, per esempio i bambini che devono crescere o senza la madre accanto, oppure comunque anche loro, anch'essi dietro le sbarre. Senza dimenticare poi gli abusi, le violenze e il sessismo che le donne purtroppo devono sopportare. Secondo i dati forniti dall'Associazione Antigone, che si occupa di tutelare i diritti nel sistema penale, nel 2018, su un totale di quasi 60.000 detenuti, le donne erano circa 2.400, quindi il 4,12%, e sono dati che dagli anni 90 non sono mai aumentati, sono sempre un po' quelli. E per quanto riguarda il grado di giudizio, bisogna dire che quasi pochissime ricevono delle condanne definitive. Eppure persistono delle disparità molto grosse nella custodia cautelare, per esempio. Oppure anche il fatto che gli istituti esclusivamente dedicati alla detenzione femminile in Italia siano veramente pochissimi. Se ne contano appena 5: Empoli, Pozzuoli, Roma, Rebibbia, Trani, Venezia e con la Giudecca. E anche se ci sono le strutture alternative dove gli istituti di custodia attenuata per le madri, questi sono appena 3 in Italia, quindi ci sono delle misure ma sono sempre troppo poche, senza contare il fatto che c'è questo pregiudizio a livello culturale ancora in Italia che vige ancora. Quando si pensa alla donna detenuta si pensa alla prostituta oppure alla cattiva madre o moglie che deve essere rieducata in carcere per poi tornare al ruolo di occuparsi della famiglia e del marito e dei figli. E quindi questo appello che faccio adesso, che siamo in vista anche della festa della donna l'8 marzo, è questo: che Pensiamo alle donne, cerchiamo di ricordarci, anche quando Pietro ieri parlavi di presentificare le persone che non ci sono in questo momento, che appaiono nascoste. Pensiamo alle donne, quando pensiamo all'8 marzo, pensiamo a tutte le donne, ma in particolare alle donne che sono in detenzione. E ora do la parola a te, Ignazio, sul Marocco. Per svelare come mai questo partenza sugli studenti. Tanti mi scrivono e tanti lo sanno, anche qualcuno che mi vede lo sa, che ci parliamo della difficoltà di studiare in carcere, e soprattutto in questo periodo di Covid le lezioni ci sono, non ci sono, sono sospese. Chi al polo universitario ha preparato un esame, questo esame non lo riesce a dare, a un certo punto ti scappa la paziente, dice ma lasciamo stare, non importa, così. Allora tenete duro, e anche perché questi anni qua in cui si vede un po' da lontano e si vede la vita da lontano, sono gli anni in cui possono venire delle idee importanti da realizzare fuori. E lo collego a questa notizia che viene da Le Matin, che è un giornale di Rabat, Marocco, in lingua francese, che parla di un progetto molto interessante in cui si lancia questa idea: lo studente negli anni che studia non è più un bambino, ecco, a 9 anni, ma lo studente universitario è già uno che ha la testa nelle cose del mondo. E allora aiutiamolo a fare delle start-up, a farlo diventare un imprenditore. Quindi è nato un progetto di formazione imprenditoriale degli studenti, in cui ci sono diverse università in Marocco che lanciano questa cosa, ci si iscrive, ci sono delle borse di studio, ci sono dei corsi specializzati. Intanto che uno studia, si prepara a diventare imprenditore. E questo è anche l'augurio che faccio a tanti dei nostri studenti in questo momento detenuti, di lanciare le proprie idee quando torneranno liberi. E oltre a un augurio, se ti chiedessi di dedicare loro un brano musicale? Allora, visto che non si vive solo di lavoro, è anche vero quello, allora dedico a Aisha Raduani, che ci sta accompagnando questa settimana, Rahati, il mio riposo, perché ci vuole anche quello. Eccoci, bentornati sulle note di Aisha Raduani. Siamo sempre con Ignazio De Francesco, il nostro galateo arabo universale. Ma Ignazio, ti faccio una domanda. Stiamo parlando di gelosia. Ma è vero che fa male alla salute provare gelosia? Esatto, esatto. Questo è il quarto passo. Prima parlane con la persona di cui sei geloso. Parlano tranquillamente. Seconda cosa, renditi conto del male che fai intorno a te con la tua gelosia, spacchi delle cose che sono belle. E poi questo passo di oggi, marifati an giusmin gismikayata aksar min ghairiha indama tashuru bil ghira, cioè rendersi conto che il tuo corpo si ammala, tu fai male al tuo cuore, ai tuoi reni, al tuo sistema nervoso con la gelosia. E usa un'espressione che mi colpisce molto, rasu al-ghira mihialatica, cioè l'aggressione della gelosia al tuo sistema nervoso, anche il tuo immaginario. Veramente un nemico interno che si impadronisce di te e uno deve dirgli, ma scusa, che cosa vuoi da casa mia? Perché mi devi distruggere la vita? Perché mi devi fare del male? Quindi prendere le distanze dalle gelosie anche per tutelare la propria salute. Grazie Ignazio, sempre interessantissimo. Allora domani vediamo l'ultimo passaggio, allora, sempre con la gelosia. E ora con te Pietro, a me di te colpisce tantissimo la tua biografia, perché sei una persona che ha viaggiato veramente tanto e hai incontrato quindi popoli, culture differenti. Allora la domanda che mi viene da farti è proprio come fare a coltivare la cultura dell'incontro con l'altro e perché il teatro aiuta a fare questo? Ma io nel rispondere voglio riagganciarmi a quello che avete detto, a quello che ha raccontato Ignazio a proposito dell'imprenditorialità, del pensare progetti. E io ho attraversato tutto il Marocco in automobile perché mi avevano invitato in un villaggetto del Senegal, Mandjaye Ndjaye, che era arrivato qua come immigrato. Poi dopo ha conosciuto il teatro, è diventato un grande attore e dopo 20 anni di teatro fatto a altissimi livelli ha detto io devo utilizzare quello che ho imparato nel mio paese di provenienza. Quindi è tornato a Jholkhad e ha fondato un progetto delle 3T, teatro, terra e turismo. Cioè ha messo a frutto tutti i contatti che aveva in Riviera, perché il teatro era di Ravenna, e quindi ha iniziato a impiantare un avanti e indietro turistico eccezionale. Ha studiato e portato agronomi dall'Italia per ricoltivare la zona di savana che si stava desertificando e quindi ha creato una compagnia di giovani teatranti e mi ha invitato ad andare a fare un progetto là, uno spettacolo. Col mio scenografo, che è un altro molto intraprendente, ha detto ma non andiamoci in aereo, andiamoci in automobile. E allora, usando i contatti degli tantissimi attori marocchini con cui lavoro a Bologna, hanno dal basso organizzato laboratori in tutte le città di provenienza, quindi con le famiglie, con gli amici, con chi era restato là, e abbiamo scritto, riscritto il Candido di Voltaire a tante mani, cioè alcuni lo scrivevano qua al centro Zonarelli, altri lo scrivevano là, quindi si è stati da Tangeri, Rabat, Marrakesh, Funzgid nel deserto, fino a attraversare la Mauritania e ad arrivare appunto in Senegal, nella regione di Thiès. Ecco, questo per me è stata un'esperienza fondamentale, cioè l'altro, io in Africa non ero mai stato, è stato, come dire, un ribaltamento. Ero io lo straniero e io sono stato ospitato, tanto che quando sono tornato ho fondato i Cantieri Meticci. Cioè, probabilmente se non ci fosse stata questa esperienza, questo mettersi in gioco nella fragilità di affidarsi all'altro, non avrei avuto neanche le idee così per provare questo salto nel buio e quindi, insomma, mettere da parte il prima e ricominciare da zero. Per cui, insomma, mi sento molto vicino a questo invito, a questo spirito a progettare. Ne abbiamo molto bisogno, ecco. Grazie Pietro, soprattutto perché ci parli di viaggi in un momento, questo anno duro, pesantissimo, dove nessuno di noi ha potuto viaggiare e domani ti chiederò di più anche a partire da queste ultime cose dette. E sì. Adesso un brano lo lancio io e lancerai, siccome abbiamo parlato di donne e di detenzione, lancerai Fiorella Mannoia, Quello che le donne non dicono. Ci fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi. E non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia. E se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già, potrà arrivare a stare con noi. Siamo Eccovi, bentornati su Liberi Dentro Eduradio. Siamo sempre al giovedì con Marcello Mattè, cappellano della Dozza. Buongiorno e bentornato. Buongiorno, bentrovati tutti. ai nostri ascoltatori tra la città e il carcere. Allora, siccome abbiamo in esame il Vangelo della terza domenica di Quaresima, che è il Vangelo secondo Giovanni, ricordo al capitolo 2, versetti 13-25, a me una prima osservazione che viene da fare, calandola nel suo contesto, questa lettura, è che siamo di fronte al Tempio di Gerusalemme, c'è un episodio emotivo che riguarda Gesù, che lo tocca molto nel profondo, quasi un'arrabbiatura, uno sdegno, no? E quindi intanto volevo chiederti, siccome il motivo dello sdegno di Gesù sono i mercanti nell'area del Tempio, cosa ci facevano? Sì, Gesù è davvero indignato perché l'attività commerciale attorno al Tempio stava prendendo il sopravvento su quella che era la finalità prima del Tempio, cioè quello di essere un luogo nel quale si rendeva culto a Dio. E se la prendeva con una certa religione fatta della pretesa di rendere culto a Dio offrendogli dei sacrifici, offrendogli delle cose, offrendogli dei valori commerciali, pensando che offrendo a Dio qualche cosa abbia il diritto, mi dia titolo per chiedere qualche cosa in cambio, un intervento di Dio nella mia vita. E allora Gesù se la prende con questa religione, con la religione fatta di uno scambio commerciale nella quale Dio è soltanto una controparte del dare e avere. E in particolare quindi se la prende con i mercanti che stavano lì a vendere gli animali per i sacrifici al Tempio, a vendere tutto quello che poteva essere necessario, l'olio, eccetera, per il sacrificio al Tempio. E in particolare Giovanni, l'Evangelista, sottolinea che Gesù ha un atteggiamento particolarmente duro nei confronti dei cambiavalute, dei cambiamonete. Perché questo? Cosa ci facevano i cambiamonete lì? Erano lì perché la religione ebraica, la Bibbia, proibiva di farsi qualunque immagine di Dio scritta, e impressa, disegnata, riprodotta. E invece la moneta in circolazione al tempo di Gesù era la moneta romana, che portava l'effigie dell'imperatore. Quindi quelli che accedevano al Tempio non potevano introdurre nel Tempio queste monete che portavano su, che recavano l'immagine dell'imperatore. E allora i cambiavalute erano lì per cambiare queste monete che riportavano l'immagine dell'imperatore con delle fiche che potevano essere utilizzate in questo mercato interno al cortile del Tempio. E Gesù se la prende proprio con questa idea che l'immagine di Dio, che siamo noi, che è l'uomo vivente, possa essere in qualche maniera fatto oggetto di scambio. E per questo che è molto duro e molto rigoroso, non tanto perché ce l'abbia con il mercato o con lo scambio di beni, ma perché ce l'ha con questo scambio che si fa dell'uomo, che è vera immagine di Dio. E quindi quando lui controbatte ai giudei che gli chiedono con quale autorità lui possa scacciare dal Tempio, ricordiamo, siamo quasi in prossimità della Pasqua ebraica che si stava per celebrare, sì. Quando gli chiedono con che autorità facesse questo, lui risponde distruggete questo Tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Che significa? E chiaramente sta usando una metafora, non fa riferimento tanto al Tempio costruito con le pietre, ma fa riferimento al suo corpo, e l'Evangelista lo sottolinea. Distruggete questo Tempio, il Tempio che siamo noi. Siamo noi, è Lui, è Gesù, siamo noi il Tempio di Dio, cioè la vera dimora dove Dio trova la sua abitazione. Quindi si tratta di vivere questa religiosità fatta non tanto di recarsi in un luogo per offrire delle cose a un Dio con il quale si possa stabilire un rapporto commerciale, ma si tratta di riconoscere la presenza di Dio in me, nella mia vita. Sono io il Tempio di Dio, sono io l'immagine di Dio. Giovanni mostra un Gesù indignato per lo scambio che si fa dell'immagine di Dio che è l'uomo, dello scempio che si fa della casa di Dio come abitazione di un Dio, come abitazione di un Dio che mercanteggia, quindi come di un mercato e non di una dimora, e poi soprattutto se la prende con questa idea che si possa pensare che Dio risiede in una casa di pietra e invece Dio risiede in ciascuno di noi, in particolare risiede in Lui che è il figlio prediletto del Padre, e allora li sfida a quello che effettivamente poi faranno, distruggeranno il suo corpo con la crocifissione e con la morte, ma Gesù lo farà risorgere nel terzo giorno. Quale brano musicale possiamo collegare un po' alle cose che ci siamo detti? Ma volevo proporvi un brano degli U2 che si intitola Walk On, perché appunto insiste su questa finalità che è data a ciascuno di noi di andare avanti, di camminare nonostante le tante contraddizioni che ci cadono addosso, e in particolare fa riferimento anche alla casa che non abbiamo, alla casa che tanti non hanno e che però va cercata non nelle costruzioni di pietra, ma va cercata in qualche cosa di altro. Rieccoci, bentornati sulle note degli U2, Walk On. Siamo sempre nel Vangelo di Giovanni, capitolo 2, versetti 13-25, in prossimità della terza domenica di Quaresima. A proposito di questo brano del Vangelo, a un certo punto l'Evangelista dice: molti, vedendo i segni che egli compiva, cioè Gesù compiva, credettero nel suo nome. Quindi, qual è il segno particolare di questo episodio che conduce alla fede, i molti? Il Vangelo di Giovanni è conosciuto come il Vangelo dei segni. Le opere che Gesù compie, spesso prodigiose, spesso miracolose, da Giovanni vengono sempre presentate come dei segni, non tanto dei miracoli. Gesù vuol dirci qualche cosa con le sue azioni. Che cosa vuol dirci con questo segno, cioè la cacciata dei mercanti dal Tempio e l'annuncio della sua risurrezione? Vuol dirci questo, che è venuto per portarci a un rapporto nuovo con Dio, un rapporto che non è fatto di commercio, di fare delle cose buone per ottenere i favori di Dio, ma è fatto per riconoscere che noi siamo già dimora di Dio, siamo già amati da Dio. Su questo tema tornerà anche il Vangelo di domenica prossima. Siamo già dimora di Dio, siamo già stati scelti da Dio, si tratta soltanto di vivere conseguentemente a questa immagine di Dio che noi siamo. Rispetto a questo annuncio di una nuova religione, molti capiscono che qui c'è vita, che non c'è più una religione morta, ma c'è una religiosità che produce vita, che aiuta a vivere, c'è spiritualità. E di solito il secondo brano, prima di salutarci, lo lancio io, però siccome l'ho copiato da te e hai scelto Fiorella Mannoia, Padroni di Niente, perché questo brano? Perché fa vedere, cioè insiste nel ritornello su questo tema, crediamo noi di salvare il mondo, invece il mondo che tante volte salva noi. È questa pretesa, no, che tante volte abbiamo nella nostra religione di essere noi quelli che salvano il mondo, quelli che invece è bene che li distruggiamo queste nostre sicurezze, che distruggiamo questi nostri templi e puntiamo su di più su questa fiducia, su questo rispetto, questo amore per il mondo. Grazie e ci vediamo giovedì prossimo. Alla Arrivederci. Prossima. Passa, certo che passa. Il tempo cammina e lascia la sua traccia. Disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia. Cambia la mia testa, il mio punto di vista. La mia opinione sulle cose e sulla gente cambia del tutto o non cambia per niente. E poi sarà che quando penso di voler cambiare il mondo, poi succede che è lui che invece cambia me. E poi sarà che quando penso di voler salvare il mondo, poi succede che è lui che invece salva me. Passa, è certo che passa, l'uomo cammina e lascia la sua traccia, costruisce muri sopra gli orizzonti, stabilisce confini, le leggi, le sorti. Sbaglia, sbaglia chi non cambia, chi genera paura, chi alimenta rabbia, la convinzione che non cambierà mai niente, è solo un pensiero che inquina la mente. E poi sarà che quando penso di voler cambiare il mondo, poi succede che è lui che invece cambia me. E poi sarà che quando sento di voler salvare il mondo, poi succede che è lui che invece salva me. C'è che siamo padroni di tutto e di niente, c'è che l'uomo non vede, non parla e non sente. Qui c'è gente che spera in mezzo a gente che spara e dispera l'amore. Qui c'è chi non capisce che prima di tutto la vita è un valore. E se fosse che stiamo davvero sbagliando e facendo il più brutto dei sogni mai fatti, e se fosse che stiamo soltanto giocando una partita di scacchi tra il nero ed il bianco, il nero ed il bianco. Bentrovati, abbiamo appena ascoltato il nostro cappellano della Dozza, Marcello Mattei, come appuntamento fisso ormai di ogni giovedì. L'appuntamento invece di oggi pomeriggio alle ore 17 su Teletricolore, canale 636, è di Ricchi al Punto con i ragazzi del Poggeschi e il giudice Maurizio Millo. E vi ricordo di iscriverci all'indirizzo postale Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammolo 2, 40136 Bologna, oppure a liberidentro.duradio@gmail.com. E noi ci rivediamo sempre qui, sempre domani, alle ore 9 su Radio Città Fujiko e alle 10.30 su Teletricolore. Ciao!